Avevamo già affrontato a soldi e dintorni questo argomento ricordando di quanto racconta, di quanto dice una ricerca di Eurisco che ha rilevato che solo il 26,5% delle famiglie italiane ha una polizza assicurativa sulla propria casa, eppure sono diversi i rischi a cui le nostre abitazioni sono esposte, soprattutto d'estate. Allora, in questo periodo, che cosa dobbiamo prestare attenzione? Forse è il caso di rafforzare le tutele? Ne parliamo con Barbara Baggi, esperta del settore assicurativo per altro consumo. Baggi, buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. Il 26,5%, adesso non so se magari Eurisco facesse in questo momento questa stessa rilevazione, se la percentuale si sia modificata in un anno o meno. In ogni caso, lei che cosa ne pensa? Sono pochi gli italiani che assicurano la propria casa o comunque una percentuale alta? Intanto qual è la valutazione, insomma, di partenza che si può fare? In generale l'Italia è un paese sottoassicurato, non, diciamo che c'è una generale sfiducia verso le assicurazioni, probabilmente perché il pensiero principale è tanto poi non pagano o comunque mi danno poco. E in effetti anche per le polizze casa ci sono sempre delle franchigie, dei sottomassimali, eccetera. Bisogna anche avere certi requisiti, per esempio parlando appunto adesso del fatto che si va in ferie, la prima cosa che viene in mente sono le polizze furto. Bisogna fare anche attenzione perché le polizze prevedono un periodo di disabitazione per cui la polizza furto non è operante. Normalmente sono 45 giorni, però non è detto che non siano inferiori, bisogna leggere molto bene il contratto, perché se noi andiamo via per un tot di tempo, scatta il periodo di disabitazione e poi subiamo un furto, a quel punto non verremo risarciti. Quindi, per essere precisi, nel periodo di disabitazione previsto dalla polizza assicurativa generalmente non abbiamo la copertura? Se anche ci assicuriamo per furto e rapina, per esempio? La copertura furto praticamente decade per quel periodo. E quindi, insomma, attenzione a questa voce. Si può negoziare questa voce con la compagnia di assicurazione, Baggi? Genere no, però si può sempre provare. A chiedere. In fondo i contratti sono anche abbastanza standard, poi bisogna vedere se ci sono anche clausole aggiuntive che magari permettono di rinegoziare questa. Dipende molto dal contratto, ecco. Certo. Allora, dicevamo furto e rapina, naturalmente questo è uno dei principali rischi a cui le nostre abitazioni sono esposte d'estate, ma ce ne sono altri, anche altri, Baggi, insomma, su che cosa dobbiamo riflettere in un momento come questo, quando ci prepariamo a partire? E sicuramente non pensiamo magari alla casa che lasciamo, ma a quella che andiamo a raggiungere per riposarci un po'. Certo. Beh, la polizza casa è una polizza multirischi, quindi oltre al solito appunto rischio furto sono coperti anche i rischi per eventi naturali, i danni d'acqua, quindi se si rompe un tubo, che può succedere benissimo anche quando noi non ci siamo. Diciamo che i rischi sono tipici per tutto l'arco dell'anno, ecco. Ovviamente se abbiamo una copertura per la rottura dei vetri o perché un evento naturale ci rompe una parte, che ne so, delle tapparelle, questo può succedere benissimo anche quando siamo via, e quindi poi potremo chiedere il risarcimento per questi danni. Pensiamo, non so, alla grandine, ecco. Certo. Esistono, Baggi, delle compagnie di assicurazione che magari fanno delle polizze assicurative solo per periodi limitati? Per esempio, adesso io penso alla vacanza, ma ammettendo di dover lasciare l'abitazione magari per un periodo di tempo più lungo, 2 o 3 mesi, perché mi devo allontanare per lavoro, esistono delle opportunità di fare una polizza assicurativa per periodi di tempo limitati? Ma guarda, a quanto a me risulta no, poi il mercato è talmente vasto e talmente in evoluzione che non ci metterei la mano sul fuoco, tendenzialmente al 99% direi di no. Tra l'altro queste qua di solito sono polizze poliennali, il decreto Bersani aveva dato la possibilità tra l'altro di disdire annualmente le polizze danni, l'anno scorso è stata introdotta una nuova norma per cui adesso l'assicuratore ti può proporre o una polizza annuale o una poliennale con uno sconto. Il problema però cos'è? Che noi la possiamo disdire dopo 5 anni. Quindi va bene che pagheremo un po' meno, però dobbiamo anche tenere conto del fatto che se questa polizza poi non ci piace perché ci rendiamo conto che non copre tutto quello che vorrei o perché ho trovato anche una polizza migliore, io devo tenerla comunque 5 anni. È una grande limitazione, avevamo fatto parecchia polemica, esatto, rispetto a questo tema, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Non l'avete spuntata, insomma, come associazione dei consumatori. Certo. Allora, se si sta valutando un'assicurazione sulla casa, che cosa è bene fare prima di sottoscrivere la polizza, prima di sottoscrivere il contratto? Naturalmente è fondamentale confrontare attentamente le diverse proposte delle principali compagnie di assicurazione, cercando di leggere attentamente condizioni e clausole. Detto che i contratti budget sono sempre piuttosto articolati, sono sempre dei volumi, esatto, e chiaramente è un tema non proprio alla portata di tutti i consumatori. Certo. Ci dà qualche indicazione magari sulle voci più importanti che possiamo soprassedere nel leggere? Ma sicuramente vedere come viene risarcito il furto. Noi consigliamo sempre di fare un'assicurazione che garantisca un risarcimento a primo rischio assoluto e non a valore intero. Perché il valore intero, ecco, bisogna dare una stima precisa dei beni, e il rischio è che se noi alla firma del contratto diamo un valore superiore a quello che in realtà è stimato, poi l'assicurazione ci pagherà meno. Quindi bisogna fare un inventario preventivo, che ovviamente è molto complesso. Esatto, non è banale. Invece il primo rischio assoluto si decide una somma massima assicurabile che non è correlata al valore dei beni, e quindi avremo un tetto fisso indennizzabile. Ho trovato un altro suggerimento che considero piuttosto originale, e per quanto possa essere difficile applicarlo, però insomma magari qualche orientamento di comportamento ce lo può dare di sicuro. È sempre consigliabile conservare scontrini e ricevute di acquisti costosi come TV, schermi, monitor, PC, notebook, oggetti di valore, in modo da poter facilmente stimare il valore di un eventuale furto che la compagnia dovrà risarcire. Beh, certo, magari se ci è arrivata un'eredità di gioielli, a qualcuno potrebbe avere anche la fortuna, da un familiare, da un lontano parente, è molto difficile avere lo scontrino di quel bene là, Baggi, quindi certo, consiglio tra utile. Tra l'altro però i beni preziosi di solito hanno anche dei sottomassimali, di solito sono previste anche delle assicurazioni particolari per beni particolarmente preziosi, quindi normalmente denaro, gioielli, argenteria non sono coperti così bene da una normale polizza casa. Bisogna anche però dire insomma, questo. Lei come giudica questo suggerimento? In ogni caso ci Ma teniamo da parte almeno per i beni. Senso, ecco. Però ovviamente non è facile, bisognerebbe essere molto ligi. Però se avessimo proprio ristrutturato casa, o magari la dovessimo aver riarredata di recente, magari un po' più facile, soprattutto per determinati beni, elettronica di largo consumo, magari per qualcosa possiamo conservarlo lo scontrino. Certo, tra l'altro lo scontrino serve anche per la garanzia. Quindi esatto, per la garanzia, magari per la dichiarazione dei redditi, se qualche bene lo andiamo anche a denunciare, nel senso perché ne otteniamo gli incentivi fiscali. Insomma, questo è un altro discorso. Baggi, buona giornata, buone anche vacanze naturalmente, sperando di ritornare dalle vacanze con le case intatte. Buona giornata, Alessandro. Eccoci qui. Oggi abbiamo la presentazione di un libro a Salvadanaio che si chiama Low Cost Mania. Buona lettura. Grazie, alle 12. Allora, e poi ci ritroviamo domattina. Noi parliamo di multe nel nuovo codice per la strada, che ieri ha fatto un passo importante l'approvazione al Senato. C'è una proposta che è stata fatta da un onorevole della Lega, ma è stata accolta un po' da tutti. Le multe rilevate con l'autovelox, i proventi delle multe dovranno essere reinvestiti nella regione dove la multa è stata fatta. Prendete una multa in Trentino, la pagate, se la pagate, e quei soldi rimangono in Trentino. La prendete in Sicilia, rimangono in Sicilia. Cos'è il federalismo stradale? È già stato ribattezzato. Siete d'accordo? Radio24.it per votare. Se invece volete intervenire, 800 24 0024. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo di multe nel nuovo codice della strada e di federalismo stradale, come qualcuno ha già soprannominato nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La proposta votata nel nuovo codice della strada è questa: gli incassi delle multe dagli autovelox, quelli insomma per quando tutti i sistemi che rilevano la velocità, dovranno essere reinvestiti dall'ANAS, che prende una parte di queste multe, il 50%, nella regione dove questa multa è stata elevata. Allora, prendete una multa in Veneto, i proventi rimangono in Veneto, la prendete in Sicilia, i proventi rimangono in Sicilia, e così via. Siete d'accordo? Qualcuno l'ha già soprannominata federalismo stradale. È stata votata da tutti, ma è stata voluta, così dicono, dall'onorevole Alessandro Montagnoli della Lega. Buongiorno, onorevole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche sindaco di Oppeano, Verona. Sì, dica subito, lei è uno di quei sindaci che mette gli autovelox per fare cassa e salassare tutti gli automobilisti? No, assolutamente no. Guarda, no, non ci utilizziamo nella maniera corretta. Abbiamo un introito annuo di sanzioni da codice complessivo che va dagli 80 ai 100 mila euro, per cui non siamo tra quegli enti che purtroppo ci sono, che fanno cassa di sicuro con parecchie centinaia di miliardi di euro, anzi anche qualche milione. Senta, le chiedo, lei in una battuta ieri pare che abbia detto basta prendere una multa sulla tangenziale di Milano e questa multa va a finanziare un rattoppo di una buca della Salerno-Reggio Calabria. È questa la ratio della sua proposta? Sono un po' i numeri che lo dicono. Qualche mese fa mi sembra di aver letto anche un dato pubblicato proprio su Sole 24 Ore sulle sanzioni a livello italiano. È un dato di fatto che ci sono realtà nel nostro paese dove si fanno le multe e realtà dove anche si pagano le sanzioni cose della strada. Da questa indagine risultava che nelle città del nord del paese le sanzioni vengono fatte e vengono anche pagate dai cittadini, cosa che non succede purtroppo dappertutto. E allora penso che nella rivisitazione del codice, e abbiamo penso lavorato bene, essendo stato approvato all'unanimità, sicuramente un buon testo. Una delle cose che fin da subito avevamo cercato di sistemare era l'utilizzo che molti purtroppo enti locali fanno degli autovelox per fare cassa. Sì. Avevamo inserito che tutti quanti le sanzioni andavano all'ente proprietario della strada. Il Senato ha stabilito un 50-50, 50-50, sì. E l'altro giorno ho pensato di inserire questo emendamento che già avevo lavorato sulla prima lettura del testo alla Camera l'anno scorso, con una questione di certezza nell'utilizzo chiariamo così, 50-50 vuol dire se c'è una multa al 50% rimane al comune, il 50% va all'ANAS, ma adesso con questo emendamento l'ANAS è obbligata a reinvestire, esatto, in sicurezza nella regione dove si è presa la multa. Però lei, onorevole, dice insomma, perché voglio dire, al nord si pagano le multe, al sud si pagano meno, e quindi dà fastidio che una multa presa a Oppeano o comunque in Veneto vada magari a finanziare la Salerno-Reggio Calabria. Questo è. No, penso che sia una questione di, siamo in tema di federalismo, abbiamo provato come governo il demaniale, penso che anche qui si rispetta quello che è un po' è una tassa diversa, evidentemente la multa, ma il fatto che si spenda nel territorio di competenza penso che sia un buon concetto, anzi forse è l'invito anche a realtà che sono meno legate ad applicare le sanzioni, a farne forse qualcuno di più e soprattutto ad incassarne. Però vede che qui allora, infatti questa ha prevenuto la mia domanda, cioè così non è un incentivo a usare l'autovelox come bancomat, come fanno tanti. Adesso se non so, in Sicilia sanno che i proventi rimangono in Sicilia, metteranno un casino gli autovelox, così ci tartassano e fanno cazzo. Innanzitutto la norma che abbiamo modificato riguarda fuori dei centri abitati, perché all'interno dei centri abitati rimane tutto come oggi, per cui le sanzioni vanno all'ente locale. Diciamo che però non penso che sia la sanzione che deve far muovere l'ente locale per fare cassa. Noi sappiamo che è una realtà che purtroppo c'è e tanti lo fanno. però questo principio penso che sia una cosa che i cittadini chiedono che vada bene. Secondo me sì, il timore però forse c'è una regione che sa che rimangono quei proventi sulla regione al 50%, al 50% al comune, al 50% vengono investiti dall'ANAS in quella regione, questo vincolo, magari dice beh allora modo per fare un po' di soldi. Comunque onorevole, stia con noi, voglio salutare perché ci stanno ascoltando Guido Castelli, buongiorno. Buongiorno, è il sindaco di Ascoli Piceno, ma è anche il delegato dell'ANCI, l'associazione dei comuni alla mobilità e trasporti, dunque di questo tema si occupa in concreto. Voglio salutare anche il professore Ennio Cascetta, che insegna all'Università Federico II di Napoli sistemi di trasporto, teoria dei sistemi di trasporto, è stato anche assessore alla regione Campania nella giunta Bassolino, in realtà è pianificazione dei sistemi di trasporto. Questo è giusto la sua carica, professor Cascetta? Sì, è così. Buongiorno a tutti. Senta, partirei da lei. Intanto ha sentito questo federalismo stradale, cioè il nostro onorevole Montagnoli dice è un dato di fatto che al nord le multe si fanno e si pagano, al sud si fanno meno e si pagano ancora meno, e quindi... Ma guardi, io non ho nessuna obiezione, anche un po' magari sorprendendo gli ascoltatori. Io penso che il federalismo, come tutte le cose, può essere usato bene o usato male. Del resto già in altri ambiti dei trasporti c'è stato da anni, dal 2000, un federalismo, o se vogliamo usare questo termine, una regionalizzazione. Penso uno per tutti ai porti turistici che sono stati trasferiti dallo Stato alle regioni nel lontanissimo 2002. Quindi ha funzionato meglio. Quindi non è una questione, secondo me, diciamo, se le multe devono essere usate per fare lavori in altre regioni. Io penso sia giusto che la multa sia ragionevole, sia una operazione di buon senso, che la multa venga utilizzata per fare il ricavo della multa, per fare interventi sulle strade dove la multa è stata, come dire, riscossa. Rimane, secondo me, il problema più serio che ho sentito poco fino adesso, ma non solo stamattina, in questo dibattito, che è l'utilizzo di queste risorse. Allora, noi sappiamo che l'incidentalità stradale in Italia è ancora troppo alta rispetto agli standard europei. Ci sono troppe persone, soprattutto troppi ragazzi, troppi pedoni, troppi ciclisti che muoiono ogni anno sulle strade. Abbiamo bisogno di grandi investimenti per la sicurezza stradale. Vedere l'auto velox come uno strumento per far cassa è sicuramente un errore, e anche come strumento di controllo, diciamo così, della sicurezza, l'auto velox suscita parecchie perplessità. Il tema è vero, è come utilizzare questi soldi, che si spendano, ma scusi, la legge... sulle strade, ma per fare cose che servono veramente alla sicurezza, ma la legge stradale, evitano morti e feriti. Già non lo prevede la legge, cioè a me risulta che i proventi... La legge lo prevede, devo dire, questa è una novità importante, perché nel passato non si faceva. I comuni, tutti, nord, centro e sud, usavano il ricavato delle multe per tutte le ragioni, diciamo, di un bilancio comunale e non per interventi sulla sicurezza, se non in minima parte. L'augurio è che l'ANAS non faccia lo stesso, e cioè usare i soldi delle multe di quella regione per far quadrare i bilanci, perché ci sono poi tagli ai trasferimenti dallo Stato all'ANAS su altre voci di bilancio. Ecco, che se io corro e metto a rischio la vita mia e di altre persone, è giusto che i soldi della multa che pago vengano utilizzati per mettere in sicurezza quella strada, anche con strumenti più sofisticati dell'autovelox, che, come dicevo, serve veramente più a far cassa che a modificare i comportamenti di velocità. Tra l'altro io vorrei chiedere al sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, ieri leggevo sul Messaggero, è un'altra vicenda, non è legata alle multe, ma questa è legata ai pedaggi che sono stati introdotti dal 1 luglio in alcune strade, tra cui anche sul grande raccordo anulare a Roma, no? Con quella vicenda che il sindaco Alemanno ha detto sfondo tutto se mettono un casello. E ieri leggevo un'intervista al Messaggero di Giuseppe Brienza, presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, che ha detto i pedaggi riscossi lì vengano reinvestiti dall'ANAS in Lazio, perché sono riscossi lì e quindi è giusto che rimangano in Lazio. E allora, sindaco, qui c'è Montagnoli che dice le multe, ed è stato approvato nel codice, tutte le multe che vengono elevate a velocità rimangano nella regione dove sono state elevate le multe, che è questo veramente il federalismo che entra così con colpi di questo tipo, anche il federalismo stradale. In realtà io credo che la questione sia un pochino mal posta. Mi permetto di osservare infatti che la norma, che condivido, anzi ringrazio il senatore Montagnoli, ha la finalità proprio di disincentivare il malvezzo, ove presente, di qualche sindaco che mette gli autovelox lungo le strade di proprietà statale per poter far cassa. Quindi in realtà la finalità della norma ha questa ragione. Che poi il 50% di questo introito rimanga all'ente proprietario della strada, all'ANAS, beh, questo non è altro che un corollario che però si iscrive in un procedimento corretto e che va nel senso di aiutare l'automobilista dal difendersi di questi atteggiamenti a laghino di tacco che dietro l'angolo nascondono magari un autovelox che produce, come dire, il dissapore e il malumore non in colui che magari poi vota il sindaco, ma nell'automobilista che passa di lì. Ma perché la razza è disincentivare? Io questa non l'ho ancora capita. Perché sarebbe disincentivare? Cioè, se io so che i soldi rimangono 50% ai comuni e 50% vengono reinvestiti nella regione, se io sono l'assessore al traffico di una regione, dico, cari sindaci, mettiamo autovelox che qua... In realtà basta pensare alla situazione attuale. Attualmente un autovelox comune colloca lungo una strada statale per intero remunera quel comune, ora invece è solo la metà, basta girare l'angolo di visuale e si comprende la razza della norma. Cari sindaci, cercate di non mettere gli autovelox a laghino di tacco perché non riuscirete più a fare cassa nel 100% del gettito. Guardate che si tratta di qualcosa di importante e di ingente anche a livello del 50%, sì, però il 50% rimane comune. Esatto, abbiamo tagliato un po', però sai di cosa, di che somme parliamo? Nel 2008 il totale delle multe fatte con autovelox è di 1.600.000.000 di euro. Accidenti. Quindi no, voglio dire, 1.600.000.000 di euro prima per il 100% andavano a favore delle casse dell'organo accertatore, mentre ora sarà decurtato il 50%. Il passaggio è stato questo, tant'è vero che abbiamo preso le mosse prima di arrivare a quest'ultima versione della modifica normativa, prevedendo che il 100% completamente si fosse esautorato dalle potestà comunali. Quindi che poi l'ANAS debba reimpiegare nel territorio, nel comparto regionale, il provento, io credo che sia anche giusto, proprio perché l'ANAS tra l'altro è articolato per partizioni regionali, quindi ci sono i comparti. Non mi sembra che ci sia, come dire, ci sia la possibilità di una lettura. No, magari la battuta, adesso poi andiamo all'informazione sul traffico, poi voglio sentire qualche ascoltatore, perché quando tocchiamo le tasche degli ascoltatori con gli autovelox, insomma, subito si scatenano a chiamare. Quella battuta a dire che Montagnoli non ci ha smentito, basta fare le multe sulla tangenziale di Milano e con questo pagarla Salerno-Reggio Calabria, magari insomma nasconde un pochino, come ci ha detto, no? In alcune parti del paese le multe si fanno e si pagano, in altre no. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Detto che l'80% degli ascoltatori votando per ora su Radio24.it si dice d'accordo, cioè che i proventi delle multe per velocità rimangano, questa proposta approvata, che rimangano nelle regioni. Io devo dire, adesso sento anche qualche ascoltatore, ma dagli sms la fiducia nei confronti dei nostri amministratori è scarsa. Devo dire. Perché c'è chi ci dice, sì, 50% ora i proventi degli autovelox ai comuni, i comuni raddoppieranno il numero degli autovelox o il numero delle multe, oppure diranno, sì, ma adesso rimangono alle regioni, le regioni incentiveranno gli autovelox, poi magari spartiranno i proventi coi comuni, poi soprattutto di sti tempi che le regioni qualche taglio lo dovranno subire, ma per carità, a pensar male si fa peccato, come diceva qualcuno, ma. Vediamo. Qualche ascoltatore, per l'appunto, se mi son perso la schermata con gli ascoltatori, però è difficile chiamarli. Eccola qua, Biagio dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica, Biagio. È la solita storia, cioè? È la mucca da mungere l'automobilista. Guardi, io faccio l'agente di commercio, sono in macchina dalla mattina alla sera, le posso fare migliaia di segnalazioni su trappole per l'automobilista. Ma questa norma dovrebbe essere proprio, ci dicono, per evitare queste trappole, perché adesso i comuni non avranno più il 100% degli introiti. Ma stiamo scherzando. Quello che è successo fino ad oggi è sotto gli occhi di tutti. I semafori truccati, gli autovelox trappola. Io proprio mentre ascoltavo voi, ecco perché la molla che mi ha fatto telefonare... Passato da un autovelox. In quell'istante io ho trovato dietro una curva la polizia stradale sulla tangenziale Salerno-Avellino. Senta, potete controllare. Ma a proposito di Salerno-Avellino, ho sentito l'onorevole Montagnoli dice basta queste multe pagate al nord dove si danno, che poi vanno a finanziare la Salerno-Reggio Calabria. Dove è sempre la solita storia, la Salerno-Reggio Calabria è la nostra croce, potevano anche evitarcela, guardi. A questo punto, con tutte le polemiche, e poi certamente non siamo noi quelli che lucrano sulla Salerno-Reggio Calabria, sono sempre gli amministratori scorretti, scorretti a tale punto da truccare i semafori, ma volete prove più schiaccianti di queste? No, no, vabbè, ma quella dei semafori ce ne siamo occupate, è un'altra vicenda. Grazie Biagio, voglio stare al sud, da Bari, da Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno a lei. Mica. Mi riallaccio al collega, perché anch'io sono un agente di commercio, a prescindere dagli autovelox, perfettamente d'accordo su quello, su quando servono, però la maggior parte sono realmente delle trappole. Perché faccio un esempio molto semplice, è assurdo che oggi come oggi su delle strade a quattro corsie ci siano dei limiti di 50 orari. Questo qui è il minimo per poi scendere anche ai 30. Sì, ma al di là, scusi Claudio, al di là delle trappole, qui il tema è un po' diverso, cioè a dire, lei è d'accordo che se prende una multa in Puglia i soldi di quella multa debbano rimanere in Puglia, essere investiti per la sicurezza delle strade in Puglia e non debbano finire nelle Marche? Questo è il concetto. Su questo posso essere d'accordo, ma però vorrei anche aggiungere che sarei ci vorrebbe più onestà verso noi automobilisti, perché l'autovelox serve, come è stato già detto, per fare solamente cassa. Questo qui è il mio pensiero. Sì. E qui per i comuni o regioni che siano, anch'io penso che certamente aumenteranno. Io ho, personalmente, di tutti i vari legislatori politici non ho alcun tipo di fiducia al momento. Addirittura. Vabbè, insomma, vediamo se al nord un po' più di fiducia c'è. Cioè, Marco da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è fiducioso che questa cosa possa ridurre il numero di autovelox per fare cassa? Assolutamente no, io vengo da un paese dove già c'erano gli semafori truccati, dove non si può respirare perché ti danno subito una multa, siamo molto tartassati. E devo dire la verità, non credo che questa norma possa portare delle cose nuove, se non più imboscate, più volte in cui troveremo un autovelox e i vigili mimetizzati travestiti. Ma perché? Cioè, no? Perché la regione vuol far cassa, così dice. Sì, esatto, cioè, ormai i vigili si travestono anche da cespuglio, no? Per pur di nascondersi, non farsi individuare e quant'altro. E poi soprattutto su questa strada del federalismo, su del federalismo stradale, credo che innanzitutto chi ha detto quella cosa secondo cui basta prendere una multa al nord che vada a chiudere una buca al sud, ha perso un'occasione per dire una cosa stranita sostanzialmente. Poi secondariamente credo che comunque è evidente che tutte le regioni che hanno delle difficoltà e più difficoltà di avanzi pazzeschi metteranno gli autovelox e incentiveranno anche questo modo per far cassa. Allora, grazie Marco. Onorevole Montagnoli, torno un attimo da lei. Senta, vabbè, come ha visto, i nostri ascoltatori hanno poca fiducia, cioè l'idea che questa norma possa portare investimenti di sicurezza stradale nelle regioni, non la percepiscono così, percepiscono con l'idea di voler far cassa, di voler rubare i soldi ai nostri automobilisti. Che le devo dire? Ma guardi, come ho detto in prima lettura alla Camera, avevamo tolto completamente i soldi che andavano agli enti locali su queste sanzioni, e poi abbiamo seguito il Senato su 50 e 50. Sì. Ci sono però anche altre norme inserite nel codice della strada. Primo è che un emendamento di un collega dice che bisogna che ci sia l'avviso un chilometro prima che ci sono i rilevatori, cosa che oggi non è prevista. Dunque il cittadino sarà avvisato un chilometro prima. e gli enti locali stessi, perché poi quando si parla di enti, io dico soprattutto ANAS, non penso che le regioni incasseranno i soldi, perché la regione non è che abbia la polizia. No, questa ANAS, no, però l'ANAS si è obbligata. Le multe le fanno gli enti locali. Gli enti locali saranno obbligati a inviare la documentazione su quante multe hanno fatto, cosa che oggi succede solo sui comuni sopra 10.000 abitanti, al Ministero dei Trasporti e dell'Interno. Quindi chi ne fa troppe magari da controllare. Per cui, siccome sappiamo, oggi abbiamo comuni che hanno 1.000 abitanti, vi assicuro che hanno un bilancio di qualche milione e ne prendono il 50% dalle sanzioni. Dall'anno prossimo vedremo esattamente tutti i numeri anche dei comuni piccoli. E oltretutto una norma inserita nel codice dice anche come spendere le sanzioni, perché oggi un po' si coprono, c'è una norma però che non è seguita più di tanto. Il nuovo codice prevede esattamente come una sospesa gli incassi delle sanzioni, sì. E se un ente locale non fa così avrà un taglio dei trasferimenti. Senta, le chiedo, per Montagnoli, cui sicuramente sono tante norme, è un codice su cui abbiamo lavorato tantissimo, però se gli enti locali utilizzano i proventi solo per fare cassa avranno verranno fermati. Taglio dei trasferimenti, no, io devo chiudere, ma le voglio chiedere questo in chiusura. Qualche sospettoso certo dice questa norma è stata sul federalismo stradale, cioè col fatto che lei appunto ha detto basta pagare le multe al nord e dove si pagano e poi vanno a rattoppare le strade al sud. Questa norma che è stata approvata in maniera bipartisan, in realtà qualcuno le ha detto no, non la vogliamo, però poi lei l'ha messa questo emendamento e siccome si deve approvare tutto entro l'estate, allora ha detto per non far saltare tutto il banco approviamola, ma in realtà lei insomma ha giocato un po' da furbetto, è riuscito a entrare in queste mani. No, guardi, io l'avevo già proposta in prima lettura, l'ho riproposta al termine, la ritengo una cosa importante, ma visto anche i dati del sondaggio, le multe che le possono fare a Verona come a Napoli e che magari anche si pagano, perché a Verona vengono pagate il 98% e a Reggio Calabria vengono pagate più o meno il 10%, è un onore degli amministratori farle quelle giuste e incassarle. Insomma, lei ha un pochino di questa idea ce l'ha, insomma, di fastidio che vengano pagate al nord al sud. No? Stiamo parlando di gestione, di responsabilità degli amministratori, è giusto, ci sono amministratori bravi al nord come al sud. Sì. E comportamenti corretti e non scorretti in tutto quello che è la realtà del paese, penso che sia una questione di giustizia. Se le sanzioni vengono fatte qui come vogliamo rimangere sul fiscale, sulle imposte, rimangono sul territorio. Va bene, che sia. Mi devo fermare qui. Vi ringrazio tutti per essere intervenuti. Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Eccola la linea per Oscar Giannino ed ecco la nostra mail bianco o nero e radio24.it. A domattina.